di Pinocchio, Antonello Pomponio, che c'è canale 20. Ah, positivo, io ci sono solo le scale, calma. E allora, sta facendo nero qua, eh? Nero, vero, nero. Mi sa che stanotte piove. Sai, perché stamattina avevo fatto la macchina, quindi la piove. La macchina, dai, sono passato al bagno. E chi su scala bagno, no? Ma passa bagno, scala bagno, va bene. E una vasca era a bagno. Capito? La misura è quella, dai. L'importante è che l'apri bene. È positivo, positivo. Adesso devo dare quella basetta, dopo le quello con la tirino, la gavina fa perché quando la faccio 220 non carica, invece attaccandolo con lo spinotto già fianco carica, adesso gliela do la gavina a vedere. Ma allora, lo spinotto quello che attacchi direttamente alla presa, anche il mio lui non funziona. Non funziona, invece adesso l'ho attaccato a fianco, visto c'è quell'altro spinottino tonno, ho messo carica batteria da quello tonno, mi funziona. La stessa cosa ho fatto io. Ho chiesto informazioni a Gianfranco, che anche lui ce l'ha, e praticamente dice che all'interno non c'è niente di carica batteria. Evidentemente che cosa vuoi fare? Anche il mio fa così, Massimiliano. E adesso stanotte viene dal vino, mi sono portato via, me lo controlla. Va bene. Se lo sto attaccando per vedere che necessità c'è la batteria, e siamo proprio al limite. Siamo al limite. Sì. 2. Dove mi pare che riesce a vedere? Sì, il 2 ce l'ho. No, io adesso ti ho attaccato e sta funzionando. Ho attaccato con un altro carica batteria, ho messo a 6 volts, ho attaccato lo spinottino con lo tondo, che ho già fatto caricando la tutta a posto. Chi è che stava chiamando avanti? Ho sentito, ma sono bulldozer. No, io non ho sentito niente. Nada de nada. Sì, magari provassi che sia un genio, magari, col camper. Ma sicuro che stia rientrando. Kappa positivo e poi Roger King. C'è una propagazione, mica propagazione, basta. Ma stamattina non potevi scendere per le caffè. Sì, potevo scendere tranquillamente, ma no, non mi hai detto niente, pensavo che non potevi mandare un messaggio, sei sceso. Ero a casa. Potevo scendere tanto domenica oggi. Non mi hanno dato messaggio, pensavo come l'altra domenica che non ci sia andata. No, io alle 10 sono andato a accompagnare la mia figlia di Santa Maria da chiesa. Un pugno era giù, sono salito la più sana, mi sono aspirato la macchina, l'ho lavata fuori. E poi sono andato lì, andato la giura, e non sapevo che lì provato. Beh, rientro mercoledì al lavoro, quindi ero libero sì. No, io ma giù non c'è bisogno di andare, non c'è sanno, già c'è Mario che lavora la macchina vicina alla mia buca. Io sto aspettandomi che devo portarla da Roberto, però adesso mercoledì è da lavoro, quindi non posso. No. Appena mi organizzo e c'è il tempo bello, ancora non mi fido, capito, che la lascio e vado a lavorare in moto. E quindi così le faccio fare quei lavori che c'è da fare. Perché prima io non la posso lasciare, perché l'altra la usa l'aria, capito? O per uno o per l'altro, se io voglio usare l'alfa e l'aria per usare la moto, procede se il tempo bello, se non fa. Sì, ma lui è in macchina, lui è lì, rientra tardi la notte, perfetto il moto. E anche più pericoloso il moto, infatti. Perciò gli ho detto, aspetta, c'ho già tutto, il fiatretto già comprato, 136 euro, alla Utas, e lo sportello l'ho preso già, e la fortuna è che è anche dello stesso colore, quindi va solo lucidato e basta. Sì, ma pure lì già ci pensano aperto, una volta ce l'hai in mano, conviene farti fare svegliato, c'era una rifrescata, c'è cambiato anche il paraurti, tutte e due li tolgo quel paraurti, uno era anche rotto e l'altro è ammaccato, metto nuovo i paraurti, tutto nuovo, tutta da rifare, tutta, non ci dà pesce, no, ma non vanno. Sì, va bene. Quella va bene la macchinetta per andare a lavorare, se riesco su a poco, paga poco di assicurazione, paga poco di pollo, con 200 euro cambi tutti e quattro come nuovi, quindi è una macchina molto economica, va bene. 200 euro, sì, fai anche meno. Ho cambiato 4 con 200 euro alla 147, c'è il 4 club. Sai tu che succio di Mario è gommista, quindi abbiamo anche le gomme in casa. E anche non fa di tanto. Io l'ho cambiato 3 sabati fa, gli ho messo le miscele, che è un albero lungo. No, parete troppo. Come nelle club io. Allora erano praticamente 120 la giornata della medaglia, 60 euro l'una, 6 per 4,24, ma 195 però, alla 147. Perché le mie non sono 195? Ma della, stai parlando della grande? E allora? Ah, hai udito, la grande sì. Eh sì, la grande sì, 195. Ho capito, però le parate troppo. Non sapevo io, sappio comunque, Mario c'è anche le gomme, non c'è problema. Poi io adesso quando sarà il momento già tu dico. Cosa devi mettere anche la piccola? No, per adesso davanti c'è la nuova nuova. Dietro ancora già ho visto che un po' ci sono. Saranno al 60% dietro tu. Davanti gli hanno messo due Continental e dietro ci sono due Bridgestone. Vabbè, però quando le consumi o se te le vuoi cambiare con le ti riscolta metti le 3-4 uguali, è sempre meglio. Se ti hanno le gomme, il disegno soprattutto è molto importante, meglio sempre avere uguali. Ma no, io la 600 ho la nuova, l'ho comprata così con le gomme nuove. E quindi le sto lasciando, appena si consumano gliele metto, però adesso mi interessa mandarla a Roberto a farle fare questi lavori, sono da fare poi così è tutto a posto, ma la condizionata è già caricata tutto per affrontare i viaggi estivi. Anche la via non è condizionata già fuori a terra. Ok, il disegno è uguale, cambia solo la marca, capito? Il disegno sono tutti e due uguali. Sì, vabbè, non importa che ci sia disegno uguale, beh. Positivo. No, sono uguali le gomme, cambia la marca e parte. L'aria condizionata a posto, no, la macchina è in ordine. Beh, dalle foto sembra in ordine, sì. La mia è perfetta, è tutto, sia di meccanica, internamente, tutto, c'ha quel colpo allo sportellone, ma è da sostituire. Da fare quel lavoro lì, poi per il resto è tutto a posto. Non bisogna di coprirsi di nulla. Ha fatto una bella lavorata a Mario e si diciamo con Uffi. Già va bene. Attento, motopompa, mi senti di splatter? La gente è giroviti, secondo me la fa vedere la ragione, poi non ti nessuno io. Sì, io siamo attenti, no? Tu attento sì. Ma sei mezzo soldo puro però cosa è. No, a me non mi arriva qua ancora. Sei ancora giù a Valle d'Oria, non mi arriva a me. A me mi sta arrivando 5-6. La radio è un po' bassa, ma mi sembra strano che non mi ascolti a me. Cambio. Attenti, canale 10, noi già siamo attenti, ma mi pare che è mezzogiorno. Non sentiva Sandro ieri? Mi sembrava strano. Per me è quell'antenna. Per me lui dovrebbe mettere una bella PLC 800 lì. Ho sentito la Sirigo, dalla piana di Sirigo l'ho sentito 5-7, capito? 5-7 dalla piana di Sirigo, poi come ha fatto, è salito sopra lì nella zona di Monnanaro, arrivava a Santiago Novemi. Secondo me è dov'è lui, se è lì al campeggio della Ciaccia, è molto chiuso. Sì, ma sentire, a te, a Sandro, quella zona lo deve sentire bene. Io l'ho sentito ieri, ad esempio, il segnale era 2, la radio un po' più alta, però l'ho sentito, capito? Però Sandro non lo sentiva neanche Sandro, non arrivava da Sandro. Non so cosa dirti. Io ci avrei solo per la PL800 lì, che è l'ideale. Ma è dove fa vedere? Tipo, sento qualcosa sotto, poi propagazione. No, c'è propagazione anche. Perché se non arriva da di noi qua, io per quella zona arrivo sino della punta tramontana, arrivo bene, poi perso completamente, non arrivo più. No, io per quella zona già sono buono fino all'incrocio di Santa Teresa, lì Costa Paradiso, tutta quella zona lì per me è buono. C'è un perfetto lì prima di arrivare a Valle d'Oria, che è un po' negativo, però tutto il resto è... ascolto bene. No, io ho sentito Sandro benissimo da Trinità Lagut, Badesi, Trinità che sono alti, quindi essendo alto la zona alta la prendo bene, ma la zona bassa del mare non arriva qua, capito? Ci vuole un linearetto, ci vuole dentro quel camperino, 747, è la grande. E lui lo vuole fare bello nella furgonetta, capito? Se la furgonetta la usi sicuramente di meno, perché se la tua vedi che esci con un camper, mettiti di venire nel camper, no? E io se no si ne può, è uno e l'altro, la seguo. Ma non vuoi pindì, però. Anche se c'è il culo, poi scusa, non vuoi pindì. E voglio aspetti che mi pagavo tutto quanto. Che ho pagato. Io ho attaccato quel microset Massimiliano l'altro giorno al VEU. Quello base la paura. Sapete di quanta volte la UHF? Infatti io mi sono vendita gemellino, capite? Mi sono vendita gemellino. Intanto c'ho quella di banda, l'amplificatore ce l'ho per farlo andare a più di 100 watt in V, in UHF lo tengo così, a 35 watt. Poi si usa l'idratto. Se lo usi lo puoi attaccare, quando non lo usi è lì. Certo, cosa te ne fai? Se non stai facendo attività, vabbè, sempre paura, ma non è più, ma fatti le cartucce. Sì, ho messo in vendita, ma tanto un messaggio a volte. Ho messo in vendita. Cosa ne fai? E ne ho, ce li ho anche doppi. Ne ho due, già ne fa. Per quello che devo, quando devo, però almeno c'è potenza che mi serve, capito? Soprattutto con la direttiva in qualche. E infatti, visto che ce l'hai le cose, usale. Quello doppio te lo vendi, tanto cosa mi ne fai? Costami quel microset, caspita, ha mantenuto un bel prezzo, sono ignari delle UHF che costano. Mi sembra che quello che c'è tu va intorno alle 150-200 euro, una cosa del genere. Sì, ed è un modello, però c'è anche il scaccare d'antenna. Infatti per quello che è molto utile, capito? Perché quello che ho io, il base, quello della Kenwood, non l'hai visto, quello non ce l'ha fatto l'antenna. E quindi è utile, capito? In qualche. Infatti ce l'ho l'ho messo in un angolino sotto che non si vede. Ho portato di mano l'interruttore, quando mi serve tiro su e ciccio. Cappanocchio, va bene, a Puglia. Perfetto, io se lo voglio 747 già ce l'ho, però ci devo entrare almeno per recitarlo con 5 watt. Ma perché quello che c'è lui c'è la potenza regolabile, quello che c'è nel coso, basta mettere la potenza a 5 watt, 4 watt, quando si poggia in campo è ben atteso e il mondo la... con linea d'acceso, lo so, tanto sta sempre viaggiando. Sì, non lo so, io non l'ho mai misurato, ma penso che diventano una tantina di watt, non fa da questo comunque. Non lo so, il 747 che hanno 5 watt da 40 watt, credo. Sì, una tantina di watt da. Infatti quando è in viaggio, se sono dietro l'altro usa 4 watt, quando invece deve chiamare e allora attacca l'amplificatore. E ti ripeto, da Sirico, vabbè, a parte la mia posizione, però da Sirico arriva a fare molto bene. Sì, a luglio, a luglio. C'ho anche un B300, io solo che, insomma, che c'è un finale che è mezzo andato da una sessantina di razzi, una cosa del genere. Oh, dimmi, allora, dici, dove sei? Sì, già arrivo, arrivo, arrivo. Ma poco fa ci sentivi quando eri a Valedoria o no? Perché Massimiliano te l'avete. Ci vuole quel camper, ci vuole il lignarettino. È piccolino, amico, buone 30 che sono cascetta, Marco ci vedi. Ma il problema di Eugenio è che non vuole spendere, là. Una cosa grossa, 747, 50 euro. Cosa grossa. Però ci vuole, vedi, perché quando sei fuori così noi ti avremmo sentito, se tu ci senti, ti stava chiamando anche Sandro ieri, non arrivavi da Sandro. Ma secondo me oggi più che più di tutti di secondo me è quell'antennino. Per me c'ha poca ricezione quell'antenna. Magari ha una buona trasmissione, però la ricezione non è bellissima. Secondo me con lì con una PL800 è una grande. A posto, ci andava a te, andava a tutti. Ehi, ma mettiti un lignaretto, Eugenio. Un lignaretto piccolino, 1080 watt, cosa, quando sei, che non ti serve l'acci spento. Quando sei lontano che devi chiamare lo accendi. Ho capito, ma non è che c'ho tutte le posizioni, vedi, la Valedoria non si è arrivato proprio un minuto e poi si è sparito, non arrivavi neanche da Sandro. E Sandro c'ha una buona posizione per quella zona. Proveremo a questa riassosta, se lo dico. Però 131 arrivi qua da me, però secondo chi è non ti sente. Guarda, se c'è qualche lineare dentro l'armadio, se ce l'hai. Io vai. Io non ho lineare, non ho mai fatto lineare. Dice un BV 131, ho detto se lo vuole per casa, quello c'è, che non è mio, Me l'hanno dato a vendere, capito? Nuovo, nuovo. Quello per casa sua è ottimo lo stesso. Ma già da me è tutto così, già. Vero che? È sempre indaffarato che. No, c'è già qualche uno che lo regala, gli altri per gli asili al volo. Ah, che non è vero. È vero, oggi, è da che tu non l'avete svegliato, Oggi bisogna tirare su l'antenna che c'è a casa pure, che è falsa. Ciao, ciao, oggi. Ciao, oggi, fate sentire dopo, già siamo qua. Aspetta, ma svegliate, mi squilla. Beh, Massimiliano, Marco, l'ho acceso adesso. Ciao Marco, buonasera, c'è Claudio al telefono. Eugenio è appena arrivato a casa e Claudio ha riprende da lì. Eia, ho acceso un istante fa, ma hai fatto troppo ridere. Mi ha detto che voleva regalo tutto. Perché lui dice, no, già va bene così, già va bene così, ma se glielo regali se lo prendi, non è che... troppo comodo, riesci a vedere? Ecco, guarda, così c'è l'ineretto, non lo stavo usando da troppo tempo, l'ho voluto mettere in funzione, così attaccato, guarda bene, se no poi si rovina a lasciarlo, e così è staccato. Ecco qua, ci ho messo anche il filtro a 5 celle anti-TVI. 9.30, però sento una piccola alternatina sotto. Sì, allora c'ho due ventole più i cavi, sono tutti accavallati ai cavi della 220. Devo risistemare tutto, ci sono proprio i cavi accavallati tutti a quelli della 220, quindi magari c'è qualcosa che rientra. Guarda, ti faccio sentire la ventola mia. Alla senti? A voglia si sente, sembri in mezzo al tornado. E infatti in questa configurazione ci vuole il microfono normale, dai, perché perché se no amplificato si attira tutti i rumori. E comunque i cavi sono sempre accavallati alla 220, quindi è un casino. Va bene, va bene. Funziona tutto, dai, raggiù un prezzo. Sì, va voglia. Ti rispetto qua, è fatto la 9:30, quindi ho voglia da bere. Eia, purtroppo adesso Eugenio non so che baracchino metterà, perché c'è avuto pure una discussione in casa per questa storia che prima compro baracchini a caro prezzo, poi li svendo, capito? Li svendo e dice, ma allora perché hai buttato tanti soldi se poi la roba la svendi? Giustamente anche mamma ha ragione. Quella tua anche un'ottima radio. Cos'era quello Super Jupsi 2000, così è? Sì, era simile al Pluto, però con meno watt, no? Super Jupiter 2000 in realtà nasce omologato, cioè nasce proprio omologato, 40 canali, 4 watt AM/FM, 12 watt SSB. Tu gli prendi un ponticello con le pinze, c'è una specie di capocchietta di plastica col conduttore dentro, c'è tre pin, no? Verticali, microscopici, piccoli. Tu con le pincette togli dall'1 al 2, lo metti al 2 al 3 e diventa 240 canali, oppure lo puoi far ritornare omologato anche volendo. Purtroppo non so cosa fare, perché tanto poi questi soldi, insomma, boh, vediamo, dai. Poi con quei soldi, se devi comprare altro devi aggiungere, capito? Cioè, se devi comprare un'altra radio in quelle dimensioni devi aggiungere, giustamente. Non lo so, io non lo so cosa la stai dando, non mi interessa neanche sapere, però è una bella radio quella da tenere, secondo me. Sai così. Che poi queste radio a componenti classici con lo scheda IPT3006 non le troverai più, perché ormai tutti gli apparati sono SMD, non le troverai più, perché poi lo so che me ne pento. Volevo anche favorire lui, non lo so, vabbè, deciderò, dai, a lui basta anche un omologato, il problema è che l'omologato non esce bene come questi, assolutamente, tantomeno col DM1000. Ma io, se vuoi, te ne faccio ascoltare io uno di omologato, l'8001 modello meccanico omologato, 40 canali, adesso è molto bene. Sì, ma quello è... Caspita, mi stai parlando dell'8001, non di Alan 48, quelle cose lì, capito? Come vedi, anche quel 48 Excel Multi, che pure esce bene, tu gli metti il DM1000 ed è cupo, è troppo cupo, o è nato male quel DM1000? Non so cosa dire, ho nato male di DM1000, mio su questi apparecchi con le PT3006 è un bijou, perché è veramente un bijou. Aspetta che piglio il telefono piuttosto che ce lo aspetto in carica, un attimino e torno subito. Gatta, cavi, ho ripreso. Sono al telefono. Gatta, Rogero. Eccomi, Claudio ancora al telefono. Ebbene, andata lì. Minchia che freddo, sono in pigiama. Mi sono messo la giacca, caspita, c'è freddo. Ma si è abbassata la temperatura, secondo voi? Abbassata parecchio, c'è la tariffa la sera. Addirittura abbassata parecchio, caspita. La va aveva detto che sarebbe stato un cambiamento, ma caspita, sono in pantofole, ho messo la giacca ma ho freddo lo stesso. Vabbè, adesso mi devo un po' scaldare. Fatti un fuoco. Se non ce l'hai un angolino lì a farti un fuoco? Eia. Faccio il fuoco qua, con la legna, che bello, tipo focarone, magari si potesse fare. Un attimino, sto accendendo il... vediamo se sono messaggi di WhatsApp oppure email. Sì, dai, io vi saluto momentaneamente che mi allontano, va. Saluto da Claudio che non rientra. E ci sentiamo più tardi se coincide, riprende la tarice, vi saluto a tutti. Noni, aspetta, non te ne andare. Che cosa c'è? Aspetta, messaggistica. Dove si sta? Le passo ci sono adesso. Ciao Massimilia. Ehi, e Marco mi ha detto, aspetta un attimino, non te ne andare. Aspettiamo a vedere se ci sono le parte. Magari. No, che è rientrato Claudio, mio. Vabbè Claudio. Non so me la butta a me di Claudio. Io devo uscire, dai. Sentiamo dopo. Ah, vabbè, allora è un altro discorso adesso. Claudio, vabbè. Claudio, sceso ci sei. Ma Claudio assente a questo periodo, c'ha mille orecchie da tutte le parti, tranne che qua, poi dice a me, cioè, quando sei 27, sei 27, non devi ascoltare da altre parti, e lui fa peggio di me adesso. Bene, bene. vabbè, mi sa che chiudo proprio baracchino, cioè lo lascio acceso, ogni tanto ascolto, ogni tanto vado alla TV, non so, tanto non usciamo oggi, mamma non è a gana, non ha mai voglia di fare niente, come si vede che sta invecchiandomi. Vabbè, non posso farci nulla. Ma ho dimenticato il microfono inserito, uffa. Tipo modellismo, e beh ce l'hai, io ce l'ho mi, con le punte piccole piccole, che ho ricordi, e va a 220 direttamente, molto comodo, se ti serve già lo sai, no? Ma il foro quanto deve essere piccolo, perché io non ho le punte, cioè ci sono anche da mezzo millimetro le punte, da 0,3, da 0,5, da 0,7, a te che punta ti serve? Il foro quanto deve essere piccolo? Ehi Natalì, non me ne ricordo, potrebbe essere 0,7 0,7 mm, ma non sono sicuro, non lo uso da secoli, praticamente l'avevo comprato solo per fare un foro e poi c'è il villaggio lampato. Velocità, perché può andare velocissimo a 30.000 giri al minuto, poi lo puoi mettere anche lento, ma veloce poi non so chi lo usi veloce, veloce non so chi lo usa a 30.000 giri al minuto, tutte le acquisti, d'altronde Natalì non sapevo a chi chiedere. Perciò io l'avevo preso, perché tanto quando mi serve trapano da modellismo, non so a chi chiedere. Non è che conosco molta gente che ce l'abbia, capito? E allora me la giù un parato. Ma se ti serve già lo sai, mi non ce ne sono problemi. Siamo anche vicini di casa, abbastanza vicini. Le cose ramate, le palle ramate. Ah no, ci vuole il rame anche ricoperto, come si dice, smaltato o trattato, se no poi diventa verde il rame, capito? Due morti di sonno, io e Natalino. Ciao, Fabio, ciao, Natalino. Ma che morti di sonno? No, per modo di dire. C'era Claudio, era al telefono, poi è entrato, poi è sparito. Sta marciando male Claudio, è molto male. C'era Massimiliano e ha chiuso. C'è freddo mi qua, mannaggia, è scesa la temperatura, mi dicono. C'è freddo in questa stanza, anche con la giacca. Marco, io non lo so perché c'è la mattina in Deia, lì c'è un bel tepore, caspita, in tutta la casa. Bene, bene. Ok, Natalino, saluta. Io sono rientrato, Ciao, Franco. Ciao, già, aspetta un secondo, sto finendo di mangiare il cane e poi prendo però il telefono con Stefano. Vi saluto a tutti, Grazie, grazie, grazie. Beh già, ma tu eri andato poi in piazza? Quando? Quando è che c'era la festa? Ieri? Che sentivo musica da lontano, forte. No, sono andato. Poi ho tirato la pista, ho tirato la pista. Aspetta, sto parlando di verticale. No, facciamo che non uscire. Natalino riprende, sta sempre facendo roba, mi Natalino, nel suo piccolo, sta sempre saldando, facendo, è molto attivo, anche l'altra volta quando sono andato da lui stava revisionando, migliorando un alimentatore di GC da computer, mi. Ma non ha detto che ha fatto il Oh, hai visto come ha sistemato il baracchino? Ehi, a Claudio. Poi gli mando la foto a Gianni, dai. Chi è che l'ha sistemato? Ehi, ha messo le mensole. No, già c'ha. C'è l'attrezzatura. Io non ho messo già. Quando entro lavoro, faccio sopra l'uovo e vediamo come cosa possiamo fare. C'ha di tutto tranne che l'antenna, l'antenna esterna, l'antenna sul tetto, dai. Mi piace questa storia che gli hanno chiuso l'accesso al tetto, sarà quel miserabile di sopra, senza sapere che se vuole lui passa in casa sua e si piazza l'antenna, ma lui non lo vuol fare. Ma Giampaolo non avevano fatto così. Lo so, però se uno vuol farsi rispettare, vuol far valere i suoi diritti, va bene. Poi se uno vuole qui tu vivere, si la piglia in saccoccia. Allora digli, o mi fai piacere l'antenna, o se no dico che faccio la spiata a chi di dovere che c'è la veranda abusiva, avanza. Ehi, già lo trova poi l'ufficio preposto per gli abusi edilizi. Allora la piglierai nel QSO sempre. Sì, il problema è quello, perché molta gente per questo vivere praticamente rinuncia ai propri diritti, quello è, vai Claudio. Vabbè, però non è quello il problema. Se i diritti sono quelli, tu mi devi far entrare, basta, non ci sono pochi scorsi a fare. Così noi la cosa piazza dell'antenna. Vabbè, ma è piccolina, scalaere è piccolina. Piccolina avevo un monitù in chimica. Monitù vivo. Dei rientra. Non passa la porta. ce l'hai attivo o il cellulare acceso? Perché non lo so se ti è arrivata la foto, qua non manda messaggi, mi sta scocciando questa connessione. Mi appare solo sai, il primo segnetto che è inviato, però non c'è il secondo segnetto che hai ricevuto. Ma la mia la foto, Natali, mandata però. Di Natalino con gli apparati, sì, l'ho mandata io. No, quella no, adesso lo faccio l'altro. Natalino, mandata però io la foto. Natalino e l'altro c'è Natale, quello Natale è di WhatsApp, capito? C'è il cane con la copertina, che bello! Eia. Poi mamma aveva visto il video del cane, mi ha detto che carino, che bello, però poi se si piglia un cane me lo devo carare io fuori, capito? Come l'antifona. Non fate quell'errore, se non avete voglia e passione il cane non si può tenere, assolutamente. Non c'è la voglia di riportarlo la sera, di fare, di uscire, se no è un casino, è Marco. Eia, no, infatti già non glielo faccio prendere, assolutamente. Come i gatti, l'altro giorno, io Marco, ma la lettiera dei gatti dovrebbe essere cambiata. Ebbene, cosa vuoi dare? I gatti, chi li ha voluti? Li ha voluti i gatti. Per cui la lettiera la devo cambiare io, eccetera, capito? Vedi com'è? Ma è la cosa di più che le compromate, cambiate. Sì, lo diciamo che è veramente carità. Eia, tu mi hai arrivato, Natale, foto, Tom, sono andato a guardare. Tu vai giù un telefono giro, non vai giù un telefono come te cogio. Copertina, cucato, va. E così sta finito. Uguale a quella. C'è la bandina così. La bandina così, lui sale sopra perché è morbida. Non si può lavare, può fare. Sono 5 metri ad angolo, come fai? Ci vorrebbe un grand angolo. QRZ, no, io non faccio più parte del gruppo radioamatori italiani, c'è QCB, divulgato tutto la QRZ, non c'è un apporto, non c'è nulla incognito da nessuna parte, meglio solo che male accompagnados. Mamma mia, va bene così nella carta, capito? Così posso ottenere tutto, però mai più mettere foto qui a destra, a sinistra, no? Non mi interessa. Adesso ti chiamiamo Lupo Solitario. Bravo, chiamami Lupo Solitario, basta che non mi chiami Ratta Pignara. Ehi, se vuoi in algherese, Lupo Solitario, in algherese come si dirà? Così facciamo i nominativi tutti in algherese. Bisogna mi informo con la mia sorella, come si dice Lupo Solitario. Ehi, ma Pompone non entra più. Cosa fa tutto il giorno? Ah, vabbè che adesso c'hanno momentaneamente il fratello. No, Pompugna sul canale 20, gli ho mandato anche un messaggio e gli ho scritto traditore, cosa ci fai sul canale 20? Ah, sul 20 è molto male. Era, adesso non c'è. Pompugna, stai ascoltando? Che è successo? Bene, bene, ma io fate girare la ruota bucata. Che tristezza volevi dire, eh? E vabbè, noi siamo di più comunque. Avanti Gianni, che si dice già? Che si dice? Mi che andavamo a partecipare alla gara, invece che faccio l'Italia. Una cosa bella. Secondo te Marco in pigiama, dice che in pigiama, eh? Mi becco alle 7 di sera per andare a prendere una cosa da bere. Ah, io già, bravo, se mi dicevi stamattina. Oh, io a vestirmi ci metto un attimo, eh. No, devo portare il cane, io alle 7 e mezza, a prepararvi, andate voi. Io no, sono in pigiama, sto bene. La Juventus si è già giocato, ma alle 3 è anche vinto. Stasera c'è la Roma, alle 8 e mezza. Io sono a casa in pigiama, non so più. Disfattista, dai, andiamo in Piazza Tola al bar Daniele. Passa via. Mamma mia. Ah, Natalina, al bar Daniele. No, ti nalega. Dai, c'è il karaoke dei tossici. C'è il karaoke dei tossici, no, dei briagoni. Mamma mia, ucci. Ui, cosa stanno facendo di questa città però? A me piaceva Piazza Tola tanti anni fa, quando c'erano le bancarelle, quando c'era parcheggio, anche si parcheggiava lì, dove parcheggiavano anche i furgoni dei bancarellai. Adesso hanno fatto queste cagate di come si chiamano? Cose, aree pedonali, capito? Che così ci vanno quattro gatti a passeggiare, per carità. E tutti i negozi del centro hanno chiuso, anche quelli adiacenti a Piazza Tola, tutta la terra bruciata hanno fatto. Beh, aspetta, fanno la Natalina. Oh, Natalina! Allora, io devo fare delle foto del marciapiede che ci sono qua in Via La Malfa, no? E del verde urbano, perché il verde ormai non è più verde, ma è un mondezzaio. Non si può passare, quelle siepi hanno praticamente trasformato i marciapiedi in alberi. Quindi fare tutte le foto di questa zona, siamo già d'accordo. E appunto abbiamo costituito un comitato. Mi chiedevano come dobbiamo fare per metterlo. C'è un sito del comune, c'è qualcosa che noi possiamo mettere queste foto. Dobbiamo metterlo per forza sulla Nuova Sardegna. Quel mio amico, quello che era a scuola con me. Ho capito. Perché è veramente una vergogna. le siepi che sono da parte di via Milano ne sono passate a via La Malfa, sono diventati alberi, marciapiedi non ce n'è più, una sporcizia e un mondezzaio da tutte le parti, erba, è tutto pieno di erba, i marciapiedi, corrono i marciapiedi, un mondezzaio. E poi c'è anche quello della, appunto, che fa le pulizie, l'operatore ecologico, che non pulisce niente. Quindi abbiamo formato questo comitato per far sì che questo disordine proprio completo, perché quando era assessore alle manutenzioni Gaetano, che è sotto di me, via Uramato e via Milano era sempre pulito, sempre. Adesso è diventato un mondezzaio. Thank you. al mercatino, passo e parlo direttamente con il dottor Serra, con Gianni, capite? Lo dico direttamente a Gianni Serra, al comandante, che è veramente una cosa allucinante lì. Vediamo se si riesce a intervenire. Salto l'ho letto, vado personalmente all'autoparco, vado personalmente e poi vediamo, vedete, cosa succede, perché è una vergogna, ma c'è un odore in quel marciapiede in atta lì, che non ci passa più nessuno. Quando la gente cammina tutta a mezzo strada, cammina a mezzo strada, e adesso a Pasqua fanno la processione, no? Qua tutto il coso San Paolo, fanno la processione, girano tutto il giro al quartiere, ma con quale cosa, c'è anche la televisione, ma con quale porcheria fanno una cosa del genere? Ma mica è una cosa tosta veramente. Mamma mia, mamma mia. Andavate, ho capito. Vabbè, comunque domani mattina mi metto in movimento, perché questa storia deve finire. Il comitato ha dato l'incarico a me, che sono un po' più faccia di gnao, capito? E mi muovo io. Io ho fatto il telefono, ho il telefonino, c'ho già tutto nell'archivio, porto direttamente tutta la Nuova Sardegna e poi ci facciamo due risate, perché è impossibile. Lo pulivano sempre, quando c'era l'assessore Gaetano, era sempre pulito, sia via Milano che via La Malfa. Ma è una cosa allucinante. Sai che cosa fa la circoscrizione numero 4, Natali? Si taglia l'erba nel suo piazzale, tutto in giro la circoscrizione, tutto il resto non fa niente. Meglio ancora, perfetto, se l'assessore per la manutenzione è sempre lì, vado direttamente lì, non me ne frega niente, intanto c'ho tutto nel telefonino, capito? Chiedo di parlare con l'assessore, a parte il fatto di conoscere tutti in Chivi, perché mio cognato ne ha fatto una vita lì, di assessorato, ne ha avuto due di assessorato, lavori pubblici e manutenzione, quindi non c'è problema, capito? Vado direttamente lì e faccio vedere le foto e vediamo se si muovono a pulire questo, perché è una vergogna proprio. Ma c'è una puzza con i marciapiedi che non ti puoi manco avvicinare dal piscio dei cani, perché ci sono le siepi che quindi coprono, il cane entra sotto, fa la pipì e tutte cose, e quindi c'è un odore pazzesco. Vedi che si scendono in andici sul giornale, dimmi mascherà. Per carità, oia. E vabbè, comunque domani provo a vedere se ci riesco a darle una scossa qua in via La Malfa, perché veramente va pulito, non si può tenere un posto del genere. Senta, contare Natali le due stradine, no? Quella parallela a noi che praticamente affianca il tutto il giardino, e l'altra dall'altra parte dell'altra ex cooperativa. Quelle strade sono praticamente invase dalle foglie, dalla mondezza, ci buttano anche le buste di mondezza. Una cosa vergognosa da vedere veramente. Tanti, era molto più pulita la città, molto più pulita. Adesso fa veramente schifo. Se poi, come stai dicendo tu, c'è il verde urbano, non c'è più nessuno, addio. Vabbè. Riprendi Gianni, un secondo, arrivo subito. Fate girare, dai. Mamma mia, comunque già, per dire, no, io mi sarei vestito e sarei venuto in un attimo. Claudio non si muove di casa, di sera quando è in pigiama non si muove, non tocca se. Luigno! È bello che era il monte. Ma chi c'è? Chi c'è? Sento la sbratte. C'è gente dall'altra, da altre parti. Senti cosa ha detto lui. Ma chi era? Falcone? Sembra che fossi Falcone mandato da me con, con il registratore. E ce ne mandava così Bacizia. Ma cocondo. Comunque degnatevi di salutare Luca che è entrato nel canale, io forza. Ciao Luca, ciao Gianni, ciao, ciao Marco, poi chi c'è? Hai capito? Ma chi lo chiama i carabinieri? Eh? Vuoi parlare con uno? 2 4 3 4 Ti devo fare, ti fa squillare un telefono tutta la notte. Capito, Luca Piccioni. Oh già, ma voi avevate nominato Luca Picconi? Noi non è Luca Piccioni. Ah, Pugioni, avevo capito, Picconi, perché aveva il baracchino questo Luca Picconi, ed era uno degli sci di Paoletto, che poi gli aveva dato fastidio, non so che cosa, gli aveva chiesto soldi. Insomma, lo faceva a pezzi lì, lui e quell'altro di Piazza Botte, come dove c'è la crema. Come si sta concettando? Come la concetta quella che si è sentata? No, sotto quel taglietto lì in zona delicata, no, sarà che è un po', no, non so se si può dire, non dico infiammato, non infiammato, ma c'ho delle erezioni spaventose soprattutto la mattina, ma degne di notte, siccome c'è quel taglietto, ma adesso ho messo il cerotto, domani metto la benda, eccetera. Ma magari stimola, non lo so, sai, un po' questo. Avessi una tipa sotto mano lì. Mamma mia, mamma di turchi. A tana di grillo gli faccio, le faccio cedere. Che cosa? No, meglio che non senti. Un po' di radio c'è, gente in VNU non comprendo nulla, non ho capito cosa hai detto. E tu spegni tutto allora, quando io c'ho altre cose c'è, dice 627 627, spegni le altre cose che se no non capisci un cazzo. No, da quando c'ho quel taglietto sotto lì, no, in zone basse, soprattutto la mattina ho delle erezioni spaventose. Io, caro mio, non lo tengo acceso il VLU perché mi piace ascoltare soprattutto gente che non mi interessa. Lo tengo bensì acceso perché ho sempre paura che mi trasano e quindi sto attento. Hai capito perché le tengo accese? Ehi, se ti trasano non fa niente, tanto lo sanno che sei 27. Capito? Te lo sanno che sei 27. Invece dovrebbero sgamare il traslatore, capito? E fargli un bello scherzetto al traslatore, capito? Chiunque sia, che sia radiatore, che sia non radiatore. Un bello scherzetto, ma bello me. No, è un CB che tratta, no? Che arriva con l'antenna interna qua, con la scala, vai tranquillo, con Marco. Ci siamo 40 anni in radio. L'altro giorno ho girato l'antenna, già ho visto dove. Okay. perché non c'entrava niente, Cimmi. C'è gente professionista che fa queste cose, tranquillo. Dimmi. No, ma poi stavano trattando addirittura quelli che stavano parlando in PMR, li stavano trattando sul canale 10. Ma io sto ascoltando anche lì, cosa mi rifletto un qualcosa, perché vai a disturbare anche lì? A cosa serve fare queste stronzate? Capito? La gente ti vuole male, no? È gente che non sa che cosa fare più che altro, capito? Però siccome io li ho già avvertiti, no? Quelli che devo avvertire, io ho già detto, la prossima volta sono cavoli amari, capito? Perché ho girato la direttiva UHF in una certa zona, non dico dove, a polarizzazione orizzontale arrivava a fondo scala, a polarizzazione verticale non ne va vedemo, non ne va vedemo. Però, cioè, se traslassi a noi, che è quelli là, allora non ce l'ha con una persona, ce lo fa con tutti, si diverte così, non altro che da fare, così è. Infatti ha ragione Fabrizio, metteci a fianco a fischiare con 3-4 kW, non sono cose belle, capito? Perché se uno ha deciso di allontanarsi, di stare per i fatti suoi, di fare due chiacchiere 27 o da qualsiasi altra parte, non c'è bisogno di disturbarlo, cosa lo disturbi a fare? Non serve a niente. Quindi stavano parlando tranquillamente i PMR, stavano facendo QSO e ce li facevano ascoltare qua. Alla fine io sono entrato e gli ho detto guardate che mi stanno trattando sul canale 10. Basta, finito il discorso, non ha trattato più nessuno. Capito? Poi ci hanno riprovato, io stavo parlando qua e sentivo la voce, perché io ce le ho sempre accese le VLU, nelle frequenze che mi interessano, naturalmente. E ho sentito la mia voce, ho girato l'antenna mentre lui stava trattando. Ed era fondo scala pieno, a polarizzazione orizzontale, in verticale anche senza PL arrivava. No, non era un cipitù a tutti i dini, era uno che c'ha belle radio, belle antenne e belle cose, capito? Che però ogni tanto, sai, diventa che i comacchini di fare queste trattate, e sono cose che non si fanno, perché io penso che non sto andando a disturbare nessuno, mai mi avete sentito a me andare a disturbare nessuno, da nessuna parte, ok? Io sono sempre qua al mio posto, tranquillo, e non voglio essere disturbato, perché non sto andando a disturbare nessuno. Se poi c'è qualcuno che mi dice qualcosa, prende il telefono e me lo dice, invece di andare a fare queste trattate, perché non si fa né a me, né a te, né a nessuno. Soprattutto a chi sta parlando in un'altra frequenza, tranquillo e sereno, stanno scambiando due chiacchiere e tu me lo fai ascoltare sul canale 10. Ma cosa serve? Ma cosa serve? Oi oi, mamma mia, non si salva nulla, né la banda CB né la banda amatoriale. È diventata tutta una cioffa. Anche in HF. Diretti avere Gianni era o Marco, te lo dico qua, non ne ho per la lingua, capito? Era in quella direzione. Tanto è vero che anche Gianni mi ha detto che col portatilino l'antenna in gomma lui gli arrivava a fondo scala. Ma quando mai? Cioè cosa pensi? Io nel dubbio. Ah, così è. Quindi non è che uno voglia infierire, verso, però facciamola bravi. Ognuno faccia quello che vuole, a me non mi interessa niente. Io patente nella carta e la uso nella carta perché è quella che mi serve, la radio la posso tenere, quindi come dell'uso non mi interessa, non ne uso, ma non è detto perché uno non fa, lo devi disturbare, non devi disturbare nessuno, ognuno è libero di fare la radio come cacchio vuole, quindi è così, bisogna fare la bravi, vive e lascia vivere, diceva quello, capite? Perciò non serve a nulla trattare, far sentire quello, quell'altro, è quello che devi fare, lascia fare la gente senza pace, non serve a nulla, queste cose non si fanno, ti ripeto, che sia un professionista o che non sia un professionista, sono cose delicate, perché poi se ti scoprono veramente ci rimetti quello che ti hai fatto. Eia, su Ponte Cesar, lo stesso c'era un periodo che c'era la portante tutti i giorni, tutto il giorno, cioè uno premeva la portante e aveva uno strano rientro, no, tra ingresso e uscita ponte, tutto il giorno così stava, tutto il giorno, e qualcuno diceva che L'idea loro che fossero, sai, quei radiatori anziani che ormai non ormai hanno fatto tutto, non hanno più voglia, non hanno neanche nulla da perdere, allora stanno tutto il giorno a rompere le palle, capito? Quei radiatori proprio andati, che ormai non fanno più nulla, capito? E per passare il tempo mettono portanze, capito? Pernacchie, traslazioni, oppure anche registrazioni mandate in loop, capito? Registrazioni di altre persone. E guarda, se ne c'è tanta, se siete più a Cicirinella, chi c'è andare a giocare la Iana avrebbe quei manetti. E chi è la Cicirinella? Portantista di dove? Di HF o di Ponte Cisa? E allora, ma la gente di più a 7070 Cicirinella, la canzone di Cicirinella, non si intende più casino. Arrestato, Rami. O è morto, o l'hanno arrestato? No, no, l'hanno arrestato. L'hanno arrestato, la patente dice che l'hanno arrestato. Ah, e sul giornale c'era la notizia? Ma quale giornale? Sto parlando del continente, quale giornale? Non ce n'è di queste cose. Sono cose ufficiali emesse da chi ha la radio rivista. Oh, anche i giornali esteri, perché quando succedeva qualcosa di qualche disturbatore seriale usciva sul giornale, non il nostro, su altri giornali, sui telegiornali nazionali anche usciva. Ogni tanto capitava, come quello che entrava in banda aeronautica, lì a 118, che dice che voleva aiutare gli aerei nelle manovre, dava il bollettino, dice che sulla porta c'aveva una villa blindata, c'aveva scritto Top Gun sul campanello, mezzo manco. Sì, era in un paesaccio, c'aveva tutto roba su banda aeronautica, Top Gun, come il film contro un cruise, no? Che era un pilota di caccia. Ma dice la villa era mezza blindata, Caserretti, coso, per carità. Ma non è che modula attualmente e sporadicamente, no, anche quella persona, no? Marco, no, ma non voglio fare questo di questo genere, non mi interessa, capito? Non mi interessa. È che dando le coordinate a chi devi darle per far sì che questi disturbi non ci siano, poi ci passano anche altre persone. È tutto il discorso, capito? Quindi non mi interessa, io volevo farlo fatto per poter difendermi, perché sai, uno ti tratta dicendo magari Marco, c'è una parolaccia anche così a titolo di scherzo qua, traslato in lì, capito, come è successo una volta che Michele stava rientrando dalla Cagliari ed era lì a Florina, si ha sentito a me parlando male, cioè scherzando nel modo come io scherzo a 5:25, invece io non stavo parlando lì, mi ha telefonato, al quale io sono 27, ora ti stanno traslando, me l'ha detto lui che mi stavano traslando, io manco a corto me ne so, perché qua abbiamo un altro linguaggio, anche scherzando qualche parola di troppo esce, e quindi non va bene, tutto lì, non va bene, per nessuno va bene fare queste fesserie, dai. Vabbè, facciamo girare, Gianni c'è ancora, sì? Sì, ci sono, sono. Di meno, a me mi interessa perché io ho una licenza, una patente e me la voglio tenere, anche se non le uso le radio, però mi serve, quindi me la voglio tenere. Mi sentono lì, ma stai scherzando, non bisogna trattare, assolutamente, sono cose brutte quelle, vabbè. Comunque Marco, non ne facciamo questione di questa cosa perché non mi interessa neanche parlarne. Io quello che devo fare l'ho già fatto, quindi se la gente vuole capire capisce, se non vuole capire che continui a usare i veicolari, a usare radio che non le competono e a mettere dentro le sottotette, perché intanto prima o poi partono e fanno piazza pulita, perché si sono stufati di tutto questo, veramente disturbano sui ponti, disturbano le dirette. Voi immaginate che c'è il PMR, insomma vicinissima alla frequenza secondaria dei vigili del fuoco, ma muffolenti sì. Meglia. Purtroppo la cosa brutta è che magari per i casini di qualcuno ci passano molti, anche chi magari prima ha fatto anche prove, no, cioè quando fanno controlli magari fanno a tappeto e ci passano anche altre persone, e ti trovano un microfonino amplificato, qualsiasi fesseria. Cosa, qualche disturbo, te l'ho detto, ci passano anche più persone delle interessate magari. E vabbè, quello è normale. Lì non stanno a tirare a cantare, no? Non c'è bene di muovere, ma stiamo fuori, stai disturbando una frequenza ministeriale, no? Non si scherza per le cose. Io manco lo sapevo, mi ha detto Fabrizio, ma quella frequenza non è che io pensavo il video fuoco fosse ancora molto sotto. Invece effettivamente è così Fabrizio, perché l'altra volta stavo ascoltando, quindi è molto molto vicina. È 45 è rotti, la secondaria, ce ne sono due, e sono tutte e due secondarie, penso, in UHF o primarie, non lo so, non ho visto lo statuto loro, ma se tu conti che a 446 c'è il PMR, e a 45 995 ci sono i vigili del fuoco, siccome che antenna stai usando, la potenza che stai usando, se li disturbi sono cacchi tuoi. Ma sempre basso è Fabrizio. No, 95 qua. Sì, me ne sono accorto, infatti. Quella in V e poi l'altra in U, però sono sezioni dove parlano molto lì in UHF, capito? Quindi bisogna stare molto attenti, ecco perché bisogna tenere gli occhi aperti. Uno fa una cosa e deve fare bene, poi essendo tutti vicini non c'è bisogno di usare grandi potenze, si sentono anche con le potenze minime, capito? Quindi bisogna stare attenti. Non sapevo io Fabio avessero quella frequenza in UHF di vigile del fuoco. Assolutamente, ero rimasto indietro, la verità, perché io quando poi non ho dato ricevitore, il CR7000 non ne avevo più comprato ricevitori, quello invece lo tenevo sempre acceso con lo scanner, quindi si andava, tornava, si fermava a destra e a sinistra. Adesso avendo le radio tutte separate, le metto in diverse frequenze, ma lì non ci ho mai pensato ad ascoltare, capito? Va bene, va bene. Natalino invece, che dice Natalino? Sei lì con gli orecchi di porco. Allora, tu piglia mai Natalino, ho fatto 20 anni di pirata, 20 anni. Non siamo mai andati a rompere le scatole a nessuno. È vero o no Natalino? Abusivi eravate. E io sì, io prima di prendere la licenza della patente avevo 20 anni abusivo, io da ragazzino ho sempre avuto le vuole, sempre, ma non ne ho mai approfittato, non sono mai andato a rompere scatole a nessuno e a interferire soprattutto i cacchi degli altri, capite? Come ha fatto qualcuno, miserabile schifoso, mamma mia, grazie. Ebbene, adesso fatelo fare a noi, no? Cioè, se andiamo in frequenze pirata, lasciateci in pace, non cominciatemi, mi ha telefonato, coso, ave 60 Sassari, ti ricordi quella volta? Mamma mia, anche importati le pomponi arrivavano offre, una cosa incredibile, guarda, meglio del baracchino, lo sai, se li metti a fianco, era meglio del baracchino. Ma perché non li sapete fare i pirati? Voi oggi non lo sapete fare, capito? Perché quello che fa incazzare a me, come ho detto tempo fa, è che se fai una cosa, falla e stai zitto. Ma cosa ti metti a dire in radio, sto usando 25 watt, mi ho occupato il veicolare, sto montando l'antenna, fai e stai zitto. Noi facevamo di tutto e di più con Natalino, non solo con Natalino, ma con tanti altri che oggi, grazie a Dio, sono diventati radiomaturi come me, o ok, eravamo tantissimi, ma mai, nessuno sapeva quello che c'avevo io, quello che c'aveva quello, quello che c'aveva quell'altro, nulla, oh, portate io, mi senti, sì, che ti sento, invece, vattene sul tetto, veicolare, tu capito? Non lo devi dire, devi stare zitto, perché chi ti ascolta, dice, ma come ti? Io sono andato a dare esame, ma di volta in cui uscì, a Cipriccio di là, per potermi comprare questo, questo e questo, e gli dici, tu, si cupareggio veicolare, vuoi un'antenna esterna, come te me, senza pagare nulla, senza avere le licenze né patente. È lì che succede il patatrac, capito? Invece stai zitto, fai tutto quello che devi fare. E tu sei tranquillo e sereno, invece non vi siete buoni a fare i birati. No, no, tranquillo e sereno un corno. Se uno usa certe potenze, antenne esterne, veicolari, dal segnale, dall'emissione, se ne accorgono gli organi di controllo che non c'è 500 milliwatt, non vuol dire nulla, non dire nulla, quelli fanno la triangolazione, si accorgono e c'hai molti più watt di quanti dovrebbero essere, e la frittata è fatta, anche se non dici nulla, se vogliono ti castagnano. Non diciamo eresie, dai. Infatti perché a me quando quella ad una riunione mi hanno detto, ho sentito tizio Caio Semprugno, era a Santa Teresa, a sua capotesta, e arrivava a fondo scala, cosa pensi che ne trattendi? E io ho detto, ma vai che non era gente, ti sto dicendo che era gente di lì che tu conosci e che tu parli pure. Capito? Quindi, perché questo? Perché siamo imbecilli, dico siamo in generale. Perché se io sto parlando con Antonello Alessio, non uso in VHF 25-50 watt, ne uso 500 milliwatt col portatino perché ci sentiamo lo stesso. A cosa serve? A far vedere che è più forte. Dico che qua io li vedo, perché ce l'ho sempre acceso anche adesso, e li vedo i segnali, capite? Li vedo. Ce ne sono due che arrivano a fondo scala qua, a fondo scala. Anche se tu c'hai l'antenna esterna come c'è qualcuno, a fondo scala qua non ci arrivi. Quindi quelli sono veicolari, non c'è niente da fare, e qualcuno me l'ha già detto, perché non è che me l'ha detto un piscuano qualsiasi, me l'ha detto uno che ha fatto quel lavoro, non posso dire altro, capite? Quindi ti avvisano una volta, ti avvisano due volte, la terza ti suonano le campanelle, ti muovi i manetti. Un esempio è qualcuno, produttore, si posizione buona, che parla con noi, amico nostro, dice c'ho l'antennino interno, sì, l'antennino interno, che mi arrivava 9 col portatile a Sassari, 9 col portatile in strada. Ma anche a dire così, sì, c'ho il portatile omologato, non serve a niente, perché quando uno arriva a fondo scala per tutto, anche se non dici cos'hai, oppure dici che sia omologato, non ci crede nessuno, dai. Fabrizio, riprendi, perché sei così basso? Non ti prende. Poi parla tipo pomponio, non capisco nulla mio di quando parla Fabrizio, un po' perché è basso, un po' perché parla tutto così. Ma ti vedo che io mi metto a portare il cane, continuate a parlare, guarda che c'è anche Gianni, fai girare. Di lei l'aria a vedermi, quando mandi torna a rompere il break, di lei l'aria a vedere chi è che porta il cane. Hai ragione, è il cane che porta a me. E adesso la mia preoccupazione è che io ho messo in mezzo a casa, non c'è problema, perché tutte le mattine e tutte le sere lo porto io. Ok, qualche volta l'aria è quando ne ha voglia, ma se sono a casa io lo porto io. Il problema è che se io mercoledì vado al lavoro e vado a portare mia moglie, che ha già rischiato due volte di strappare, perché quando la ritrappi mia moglie non ce la fa a tenerlo. Quindi. Guarda, adesso c'è la prova del campionato sardo di tiro, lauritano. Allora, Filippo ha vinto già la prima prova sino a 100 kg, adesso a 150 kg e sono sicuro che la torna a vincere, capito? Diventa campione sardo di tiro, perché le tira a 150 kg, non c'è niente da fare. Cioè io ne ho preso 90, capito? E al braccio a me, se non lo tengo mi fa cadere, e peso 90 kg, hai capito questo problema, Fabrizio? No, ma lui sta parlando come struttura, è fatto diversamente il mio, Gianni, è quello che sta dicendo, capito? Come struttura Filippo c'ha il petto che due volte di taglio, è una cosa impressionante, cioè non fa, io sono preoccupato perché adesso mercoledì deve portarlo mia moglie, e rischia di cadere, che già due volte ha rischiato di cadere, anzi una volta è caduta quando ha dato lo strappo, ma io me ne accorgo, sta sempre tirando di più, sta sempre tirando di più. Adesso mi diciamo, il campionato di salve di tiro a Oritano ad aprile, la data non me la ricordo, ad aprile. Peso a tiro 150 kg. No, Natali, guarda, se tu vedi il mio cane ti fa 20, non fa, già metti qui taglio, andando di quelli lunghi, ma già hai fasciato lui di quelli belli cattosti, quello corto non fa perché non è molto alto, capito? Non è molto alto, e quindi devi tenere il braccio giù e viene male, quindi ne ho preso un altro leggermente più lungo, però deve essere rigido, capito? Rigido, quelli morbidi lì, li spezza. Allora qua, cioè, voi venite, vi faccio la foto e ve la mando, e non l'ho rotto io perché entrate all'edicola e glielo dite. Due settimane fa sono entrato, prendimi il giornale, sono entrato, siccome quando entro dentro col cane, che posso entrare perché mi fa entrare, sta a rompere le scatole, salta sopra il padrone che lo conosce, cioè, l'ho legato dove Natali mettono quei bidoni che ci sono, quei pali no, nella strada, dove attaccano il bidone per la mondezza, l'ho legato lì. E prima abbagliato, già sto arrivando, si è incazzato, mi ha tracciato, tutto è entrato dentro il disco, mi ha tracciato il tubo. Io a Guizzaglio non lo posso mollare perché va sopra tutti, è un cane molto giocherellone, secondo i cani grandi che trova sa farla, con i cani piccoli le va sopra, li gattigheggia, i passeggini non li può vedere, li abbaia, ho paura, non è che non va il cane da solo, quando c'è Mario, mio genero, è lui la detrattore, il cane è il suo, non è il mio, lo porta lui, è sempre con lui, capito, anche stamattina ce l'aveva lui, lo molla, basta, c'ha un richiamo lui, un tipo di fischietto, e il cane vola, sai se lui vola, e io ho paura perché ho paura di fare danno, non è un cagnolino, capito, è solo quello, ma è abbastanza educato e intelligente il cane, perché fa campionati, fa mostre, io quando andiamo alle mostre sta sempre seduto vicino, così non si muove, il guinzaglio è lento, quando esce fuori, soprattutto qua, se ti trova dentro il palazzo, che tu sei dentro il palazzo e non ti conosce, ti abbaia di sicuro innato, dice tu dove stai andando, questa è casa mia, io altro non ti conosco, fuori, così fa, zimì, oramai conosce a tutti, no? Tutti quelli che conosce, lui si butta sopra a giocare, quelli che non conosce, ti morsica. Molto inglese, eppure deve essere un lord, e invece un capo di gojo, di cantarano. Va bene, dai, mi sto vestendo. Gianni, riprendi con Fabrizio, con loro, io mi vesto intanto, ma sono qua, dai. Potrei essere, ma qua per me non mi dicevo così. frecciatina qua, e se non so dove non ce ne sono. Va, frecciatina, no, l'ho notato però da un po', deve essere la gana di... Mamma mia, mi dovrò sfogare di anni di astinenza poi lì, devi vedere, mamma mia, bisogna stare attenti a chi ti capita. Te l'ho detto, le faccio il sedere a tana di grillo. A me mi piacerebbe provare una cinese, non so come siamo questi cinesi, una cinesina carina mi. So che quelle sono abituate a pisellini cinesi, no? Magari con gli italiani si trovano anche bene, boh. Le confessioni di una tappigliana. E poi finché non provi non lo sai, capito? Bisogna provare per credere, tipo quello Agnaccione, te lo ricordi? Magnaccione, era finito in galera. Scusate, ho sbagliato canale, questo canale porno. No. No, porno no. Però, insomma, prima o poi dovrò far fronte a questa cosa, no? Bene, bene, bene. Claudio, dove è andato a portare il cane? Yeah. O meglio, il cane è andato a portare Claudio perché lo tira, capito? Caspita, se tira il tuo, o già, immaginati quello di Claudio è proprio una belva, una forza della natura. Mamma mia, ogni rottura di palle è un cane così. E purtroppo, quando ce l'hai lo devi portare. Perché l'aria lavora e quindi... Beh, io sto scendendo, se ci siete a dopo, ok, che sono già meno 20, ciao. Grazie, non può la passeggiare. Guarda che bello, ma tranquilla, abbiamo buttato in terra, mi abbiamo fatto cadere. Ma avevi inciampato, ho perso l'equilibrio. Non è che ti ha buttato tirando, o sì? Aspetta. No, abbiamo fatto... Allora, c'era praticamente... Eravamo... l'abilità quello trascina di peggio mi. Il cane tuo è un cane tiri, è una cosa normale Gianni, ma come tira Filippo? Io penso che non ce ne sia neanche una, se lascia aperto, ma poi c'è, lascia aperto, a parte il fatto che c'ha un peso due volte del tuo, la struttura è il doppio del tuo, perché il doppio l'ho visto il tuo, è il doppio, ma poi le piace proprio tirare, le piace tirare, non c'è niente da fare, c'ha forza e tira, tira proprio, guarda qua, dammi proprio stamattina, ero di nuovo con quel signore del Pitbull, che sta diventando molto bello, c'ha una bella struttura, ma il tomate avevo sempre in difficoltà con questo cane, prova tu, ma siccome lui ha visto che ha cambiato mano, se ne è accorto subito, il suo è rimasto fermo, è fermo lì, l'ho tenuto, quello qui è rimasto fermo, lui come ha visto che ha cambiato mano, ha dato uno strappo, a Giomai lo pone a bandiera, un ragazzo grande, a bandiera, ha detto lui, a bandiera, allo strappo che ha dato. Non l'ho mai da portare, così mi vedi a bandiera, a mezz'aria. No, ma io, credetemi, me non lo dico per vantarmi, non lo dico per presunto, no, assolutamente, voi volete fare la prova con me, ma qualche volta l'hanno fatta tutti, hanno tutti pescio, tutti, c'è un signore che ha più o meno l'età mia, che ha un fattore mare. mano, bellissimo, enorme, sembra il cane di Heidi, enorme, un bel bestione. Ho fatto una tira il suo, no, venga, è pesante, sì, lo tengo bene, venga, prenda questo, ci tocca la curiosità, prenda questo. Mi ha detto, guardi, ci vuole il suo coraggio a tenere questo cane. Lui non cammina, cammina con forza, ti tira proprio, ti tira camminando e ti mette in difficoltà, cioè ti fa, a me mi ne vale le lacrime, d'estate, è una cosa allucinante portare questo cane, credetemi, non ci credete voi, venite e provate. Lo fa anche il taglio, solo io qua non tira così, ecco che lo faccio camminare a piano, così almeno non tira così, lo faccio camminare e a piano la faccio, e quando io ci ho pensato di fare il trame, insomma io l'ho preso a portato, poi ho tirato il trame, perché già una volta che ha tirato le laico l'ha fatto un carico di voi, quindi quando lui è tornato io non ci chiede il trame, mi hanno pensato. Però qui è sempre un cane che ci sta incrociando, roba del genere, lo tengo qua a fianco. Però da questa evidenza c'è una pensata, da dirlo, questa cosa se ci può andare in un posto, tu se ci può andare dall'altro, lui deve essere una trasposta, si è come su mano. Già, cosa sono questi che gli addestramento? Le faccio Mario, non ti capisce, cosa sono questi guitta di addestramento? Cos'è questo guitta di addestramento? Che tu arrotoli e lo tieni, cioè, mandami la foto, no, non capisco. Guitta di addestramento, non vi nei guitta di addestramento, guitta di sono tutti uguali. C'è quello corto, c'è quello lungo, c'è quello a pettorina, c'è quello cazzo a corte. Forse quello lì che stai dicendo tu con la pettorina. Allora, il taglio con l'addestramento serve praticamente tu puoi accorciare certi presidi a rischi, tu puoi fare sul corpo come devo promettere tu, io devo promettere sul corpo. Adesso ultimamente lo stavo portando in ascensore, lo hanno chiamato l'ascensore che si può portare a mandare in sala. Ho fatto sempre se fa lanciare in casa che ci aveva, se no che me lo controllava. Mi ha spaccato una metro, ho capito per fare che ho solo quello per tenere tutto, però io me l'avrò con la mano adesso, invece che mettiamo nell'altro metro, dopo con la mano lo tengo conto. Adesso ti ha capito Mario, di quei guinzagli ne ha già rotto 4, mi sono rotto le balle di comprarli, capito? Perché lui quando è così di quei guinzagli noi non ne mettiamo qua, quando invece è in alle mostre, alle cose, allora si usa quello, va bene, perché c'è il numero, c'è la bandierina, eccetera, eccetera, perché. Però quelli Filippo si gira, lo morsica e te lo mangia, non venuto da là, non venuto. Qua tu qualche giorno dove fai la prova con me, così ti rendi conto e vediamo se il cane tuo, nonostante sia della stessa categoria, perché anche il tuo è un grosso, tu riesci a tenere il mio, come dico io, facendolo andare, e se secondo te io ti sto dicendo balle, quando vuoi noi proviamo, cosa c'è, allora ci ti puoi mangiare a Gatriani, dai che vado, ci vediamo dopo. Sì, ma io ci credo, claro, se ci dice Paolaccio, ti sto dicendo che anche io ti la metà la mano in terra, ma se uno, come è andata, non sono solo, sono proprio messo il braccio, ma ho portato sul campo, la prima è andata sul campo, e dopo ho messo il braccio dalla cosa, dalla scala. Vedi, tu con dei gatti ti rincorre, io i gatti manco li cerca, le passano vicino, qua mi ne vengo le che dormono i gatti, lui le passa vicino, a uno l'altro giorno l'ha anche pisciato in testa di gatto, che era addormentato non se ne è neanche accorto. Ah dai, no, sai, no, i gatti sono tutti sono quando accorgo, ma se si fermano, anche lui c'è un gatto selvatico, che sta vicino a casa, c'è una specie di gatto, e c'è la tavola, modificata di un selvatico. Aspetta che un giorno cazzo l'ha preso il soffrarrà e ha cominciato a abbagliare, questo cazzo ha cazzo non si muove, va giù di un metro, non c'è mosso, ha un coraggio, questo cazzo mi ha avvicinato, non c'è mosso, dai non abbagliava, indietro siamo, non abbagliava, però non lo attaccavo, no, è diventato la testa il gatto salvisini con la zampata di Bucarucci. Dai che vado, Marconi, riprendete voi, già torno subito, lasciamo il mago qua e non scendo, ciao Claudio, dai, buona passeggiata. Ciao Fabri, ci sentiamo, dai, buona serata, ci sentiamo, avanti va. Sì, ho già, avevo poi guardato sul computer per quanto riguardava il veleno per lumache. Si chiama il componente chimico metaldeide, metaldeide, come si fosse metaldeide. Devo dire che è peggio del grano rosso per i topi, lo sai, perché per il grano rosso potrebbe passare molto più tempo prima di sentire i sintomi, ma il veleno per lumache è tremendo, è neurotossico, quindi anche poche ore ti dà il cane, potrebbe essere già spacciato. Infatti se vedi per terra granelli azzurrini o granelli verdi, allontana subito il cane, è fatto proprio di granuli azzurrini o verdolini. Invece il veleno per topi di solito, ma non sempre, è fatto di granelli rossi, sembra come una specie di, infatti lo chiamano grano rosso. E poi la metaldeide può essere anche chiara di colore, quindi manco te ne accorgi, color biancastro così, e sai come fanno i passanti, l'ho visto le foto, fanno una polpetta, cioè in due parti ci mettono dentro un po' di metaldeide in granuli e chiudono la polpetta, capito? Più miserabili, il cane non se ne accorge perché dentro mangia e poi lo avvelena. E ripeto, è neurotossico, quindi qui avevo visto anche i siti di cliniche veterinarie, una cosa allucinante. Ci mancava solo quello, dai. E c'è gente che lo usa puntualmente per ammazzare cani e gatti, per carità, ho visto anche le foto. Mi sarebbe da prendergli e farglielo mangiare, capito? E fargli fare la fine del cane o del gatto. Ci sono quelli che li mettono i chiudi, la polpetta, oppure mettono i chiudi, vicino a casa, ma non sono proprio per guidare, lo sai perché? Perché c'era uno che aveva la tossigerata, ma non l'ho raccontata, l'hanno buttata subito la tossigerata in bocca, lui ha vomitato e vomitando ha colpato il veleno, però l'hanno portato subito al veterinario, qui adesso è vero per farmi pensare di dottor K, come si fa, proprio per... mi guarda da un sito veterinario. L'effetto della metaldeide è rapido e si manifesta in circa 2-3 ore. In seguito all'accidentale assunzione del prodotto si osserva una sintomatologia neurologica molto violenta, spasmi muscolari, contrazioni tonico-cloniche, convulsioni, questo non so cosa sia, opistotono, irrigidimento con iperestensione del capo, un casino, ipersalivazione, midriasi, cioè pupille dilatate, tachicardia, un casino, è molto più immediato del grano rosso anche, poi c'è terapia, cosa fare, vediamo cosa dice. Non esiste antidoto, lo sai, specifico. Forse bisogna farlo vomitare, non lo so, adesso è lungo da leggere, però... Ascolta, tu hai fatto militare già, no? Tu non li hai mai conosciuti quei fornelletti pieghevoli per... che funziona con delle pastiglie combustibili, no? Per scaldare il rancio. No, io mi stare tutto, non ho fatto dal marito, ma la batterena è giù. Allora, prima, una volta, ai militari, ma anche ai campeggiatori, vendevano questi fornelletti ultra compatti, pieghevoli, che funzionavano con metta. Sono delle... non piastrelle, sono delle tavolette bianche, no? Tavolette bianche, si chiamava metta, abbia questa tavoletta nel fornelletto, l'accendi, brucia subito. Si chiama meta perché proprio è metalleide, cioè quelle tavolette erano fatte di metalleide. Il problema è che erano tossiche, quindi i fumi di questa roba erano anche tossici per il campeggiatore o per il militare. Infatti poi l'hanno abolita questa meta per i fornelletti. Cosa succedeva? C'era scritto su un libro veterinario, no? Tanti anni fa, no? Se tu campeggiavi e usavi questo fornelletto, no? Poi andavi a dormire, l'indomani trovavi un bel lumache morte intorno a questo fornelletto, proprio perché le sostanze emesse erano tossiche, e trovavi tutte le lumache morte. Adesso invece i fornelletti pieghevoli lì vanno con Esbit. Si chiama Esbit, sono lo stesso tavolette di sostanze chimiche, che però sono atossiche, non sono tossiche, non puzzano, non sporcano la gavetta, invece la meta sporcava parecchio la gavetta, te la faceva nera sotto, nera, capito? Ce l'ho anch'io, ho preso un fornelletto di quelli là, che però quelle piastrine bianche hanno una puzza particolare, hanno un odore strano tipo pesce. Secondo me quelle sono fatte di meta, invece come piastrine di ricambio ho preso le Esbit, le tavolette Esbit. E infatti quelle tavolette di serie puzzano un po', ti fanno la gavetta nera, invece l'Esbit ha una fiamma molto delicata, non ti aderisce molto la gavetta e non puzzante, l'ho notato, ho fatto la prova. Quindi vedrò di smaltirle all'aperto se potrò quelle tavolette di meta, perché se le usi in casa è tossico, ti intossichi tu stesso, capito? Poi fa male anche agli animali. E quindi, per carità, di tutti i colori ne studiano per ammazzare gli animali. Ma non beccarlo, mi alleggi lì la targa, cazzo. Fallo arrestare proprio. Mi piacerebbe proprio beccarne uno. Bisognerebbe portare sempre la battaglia da fare. Per il controllo delle crisi convulsive si somministra sedativi che sono rilassanti del sistema nervoso, no? Poi vediamo. Vediamo, cure mediche spottate. Sto cercando di capire se lo fanno vomitare o no l'animale, ma immagino di sì. È lungo, mannaggia. In base a cosa fare, vediamo. Struttura veterinaria, quando arrivare a veterinario è già morto. È troppo lungo, è lunghissimo, mi. Vediamo. Ma di cosa stanno parlando qua? Di vitamina K o di cosa? L'hanno prima la metaldeide, non dice esattamente. In altri siti sono molto più specifici, ti spiegano meglio cosa fare, capito? Prima di arrivare dal veterinario, perché a quando arrivare dal veterinario se ti fidi è già morto. Ma distillata, prima hai detto ossigenata. Guarda, Claudio invece è stato fortunato, lui faceva, il cane faceva la pipì rossa, vuol dire c'era sangue, quello era veleno per tutti, grano rosso, e c'era quasi morto, l'hanno salvato in extremis quel cane, anzi meno male che non ha riportato effetti a lungo termine, cioè meno mazioni definitive, è stato fortunato. Oh, se siete così cattiva, boh. problema è che non si riesce mai a individuare la persona, capito? Perché vanno magari quando non c'è nessuno. Cioè, se io vedessi uno mettere polpette, no, io aspetto, magari gli gira targa, apro la polpetta, se vedi che dentro ci sono granuli rossi, azzurri o verdolini, guai. Bisogna evitare che gli animali lo mangino e chiamare qualcuno, polizia, carabinieri, soprattutto se è preso la targa. Anche a costo di prenderla in modo preventivo, cioè tu la leggi la targa, poi se vedi che i bocconi sono avvelenati, allora la dai alle autorità, poi già si arrangiano loro. Io l'ho che passava anche la carriera a me, appunto, la volta appunto è finita di il problema è che anche se tu vedi una persona che avvelena gli animali, poi devi andare in tribunale a testimoniare che lui ha messo queste polpette. Ovviamente il suo avvocato tenterà di farti a pezzi, capito, di smentire la tua testimonianza, è uno schifo, ahimè, senza contare che se è un brutto soggetto si può anche vendicare, è una rogna, mia, è sempre una rogna già, anche se individui la persona. Sai che va a guardia dubbia, già l'ho cominciato la mano. Ci sono vendette trasversali di quel tipo anche. Natalino, e tu? Oh Natalino, ma tu avevi fatto guardia zoofila, Baracelli o no? O roba del genere, o guardia giurata? No, ma credevo che avessi fatto un lavoro, sai, così, da divisa, anche zoofila, no, chi era? Non ci vi era, ah no, Antonio Grote l'aveva fatto, era della zoofila tanto tempo fa, lui era, no? Adesso me lo sono ricordato. Sì, in realtà non abbiamo fatto servizio a Pulana. Ah, quello ha fatto, sì. Cava, ma Antonio non è stato facendo. No, lui c'è e non c'è, capito? C'è, ma è come che non ci fosse, ogni tanto lo riprende. Oh! Yeah. Ah no, ho sentito un rumore strano. L'hai sentita mamma? Parla un po'. Sì, dimmi. E te? Dalla cucina. Mamma, quando parla Baracchino fa subito. Tutto bene. Fa subito la voce impostata, no? La voce continentale fa mamma. Quando risponde. Esagerato. Quando risponde al Baracchino fa la voce impostata, capito? Ma c'è una persona che conosco io quando risponde al telefono. Cioè, non le piace rispondere al telefono pronto, come faccio io, mortal. Di pronto, poi una voce più chiara fa, capito? Giustamente io c'è rotto e rispondo. Pronto? Dice babà, ti sei scendato babà, pronto? Poi vabbè, esagerando, la sorella di un ex amico era sarda, sardissima, come andate in Emilia? Finché tutta la voce da emiliana, stavo per dire al telefono, ma perché stai facendo la voce così? Capito, siccome c'erano altre persone, diventata emiliana, capito, una volta arrivata in Emilia, mi dà un fastidio. No, poi a portata estata prendiamo subito la città, perché i continentali da 58 non lo prenderanno mai, perché mio padre era... No, ti posso garantire già che era fatta apposta, era troppo strana la voce, c'era gente intorno. Poi quando è arrivata da noi, quando è ritornata in Sardegna, parlava normalissimo, come parliamo noi, capito? Quindi lì l'ha fatto proprio perché deve essere che era con gente in emiliana, quindi lei doveva, tanto la razza è quella mia, gente che vuole sempre apparire tra i VIP, VIP con i VIP, capito? E già te l'avevo raccontato, l'elemento era lui, la sorella, anche, uguale. E vabbè, dei carabinieri quando li trasferiscono qui, vengono qua, non ci sono stati, parlano, Venezia ha detto il romano, cioè poi non c'è tutto l'accento. Di solito sai quando ci sono i posti di blocco, non sempre accenti interessanti i carabinieri, o romano oppure non lo so, hanno belli accenti dai, se salvo a me non piace, un po' con le doppie così. Quando registro la mia voce mi rendo conto di come ho l'accento sardo, certo non come italiani, no? Quelli, quelli in intervista in TV mi sono sempre con questi accenti schifosi da cagliaritano. Io mi sono ascoltato registrandomi la mia voce brutta e proprio all'accento sardo. Dai, porta il cane, poveretto quello, purtroppo da solo non può andare, eh? No, sarebbe bello mandarlo da solo, scendi e piscia, io. Bene, dai, ci sentiamo domani, salvo, tocchiamo ferro, catastrofi naturali, terremoti, comete, asteroidi, atti di terrorismo. Sentiamo domani, ciao, ciao già, ciao Natalino, saluto anche te, tanto devo mangiare, ciao Fabrizio se ancora l'ascolto, ciao a tutti, dai. Ciao, ciao Marco, ma io qui ti ho detto, non ci sono scritti perché stava più questo. Ehi, magari gli metti anche il pannolone al cane, mi. Va bene, ciao già, buona uscita, dai. Dimmi Natalino. Ah, il cane, sarebbe bello. Che fosse autonomo il cane e scendesse bravo bravo, facesse bisogni, il problema è che poi i bisogni non li può recuperare. Comunque è vero Natali che c'è un bel di gente che se ne frega di pulire la cacca del cane, se in certe zone, ma che sia da Claudio che sia qua, tutto cacche di cane anche davanti al portone quasi, se la puttini, capito? È bello che si dirigi roba a questi vicini che c'ho io, ti offendono pure, ti dicono fatti i cazzi tuoi, capito? Conosco, sono bustine verdoline per caso, o sbaglio, ci sono anche altri colori. Pellegrini, gente gente che non ti ha mai... Io lo vorrei dire a parole mie, però poi Gianfranco che in ascolto mi dice che sono maleducato, vero Gianfranco? Gianfranco, ma magari è andato a mangiare. C'è gente qui che abita di fronte, che non mi ha mai cagato in 20 anni, come ho visto la volontà nel baracchino. Dice, ma io vedo male il televisore. E beh, cosa vuoi da me? Infatti era il tecnico che aveva fatto un pasticcio, gli aveva messo l'antenna nuova, aveva fatto un pasticcio, lo sai. Infatti poi gliel'ha messo a posto e non ero io a disturbare, capito? Carità che capre, ma a parte quello, no, che te lo chiedono, la gente non mi ha mai considerato in 20 anni. Un giorno viene, stavo per dire, scusi, chi è lei? La conosco, siamo mai presentati. Dice, con questo baracchino vedo male la TV, capito? Così fanno. Vabbè, io non ci riesco a essere troppo posato, no, a dire chi è lei, la conosco, chi è lei che mi dà del tu, da dove è uscito, non ci riesco. Mio figlio non dice a giocare, dove dire, allora dica a suo figlio a giocarci con la va. Esatto, cazzo, pure la DSL, ma guarda che trovano cose assurde lì, non mi funziona il forno a microonde, roba del genere, mi ti dicono bestialità del genere. E ho letto cose assurde sul forum, proprio cose assurde, vabbè, non so che ti dica. Bene Nathalie, oh, ma io sto aspettando qui la pappa sotto il naso e non arriva, è molto preoccupante, aspetta che chiedo, eccomi qua, è in preparazione. Guarda, io sono deperito, poveretto, non mangio da anni. Ui, che buono quel dolce che era, mamma mia. Io penso ero sazio, ma come l'ho visto, ho detto, a costo di uscirmi negli occhi, me lo devo mangiare. Quel dolce del locale lì. Eia. Buono il tiramisù, quello era anche delicato, la verità, era molto delicato, buono però, buono, mamma mia, mi sta venendo voglia di andarmene in pizzeria a mangiarmi la pizza, lo sai, anche nel corso di andare da solo, bello, ti siedi, ti mangi una pizza, eh? La soddisfazione che ti dà, no, anziché mangiarla a casa, che è più squallido, no? Esce bollente dal forno, cioè passa proprio dal forno al piatto, ma sai quanto è buona? Cioè già lo sai, no? È un'altra gufa, come dice Claudio, pigliarsi la pizza e mangiarsela a casa anche non mangiarla lì seduti. L'atmosfera è diversa, dai. Bene, bene. Chi c'è rimasto qua? Fabrizio Mascherato, tu avevi chiuso, ci sei? No, chiuso. Arrivava basso oggi, lo sai. Basso, poi confuso anche nel parlare. Lui parla molto forte o veloce, non lo capivo bene. Comunque, caspita, Natalia, anche con quest'antenino arrivi così bene. Poi la radio chiara, minchia. Comunque per adesso c'hai un accordatore con le palle, quello è poco ma sicuro, bello, puoi andare anche quando c'è l'antenna per 27 verticale, mi puoi andare anche in 45 metri, d'accordo? Pronto, tutto fatto. Attenzione, attenzione Antonello Di Ossi, Antonello Di Ossi, anticipa a te, rispondi se sei all'ascolto. No. O non c'è, o è andato a mangiare anche lui, tutti a mangiare a quest'ora vanno a cenare, però io a pranzare. Magari lo contatterò via WhatsApp. 9, 9, lui. E beh, Claudio, tu là, tu? Lei, a me stavo aspettando la papatuia. Poi tocca aspettare, lo sai che mi viene voglia di andarmene da solo in una pizzeria a mangiarmi la pizza. È tutta un'altra cosa che non mangiarla a casa. Ah? Anche da solo mi lo farei, anche da solo. Bello, passano il forno al piatto, un bijou. Infatti organizziamo, quando ci sarà Stefano disponibile, organizziamo, anche allo stesso posto va bene mio, visto che la pizza è buona. Stefano ha detto che mi chiamo appena libero, anche in settimana, però bisogna essere disponibile, io ci vado, anche se di martedì, di mercoledì non me ne frega niente. Qua c'è, capito, perché poi adesso ha iniziato il boom, è difficile che sia libero come prima, capito? C'era uno che conosceva la piazzetta lì dell'edicola, a sportello aperto, dalla voce l'ha riconosciuto, uno mi ha parlato, sono entrato dentro la macchina, era tutto l'inghito, l'ha distrutto, l'ha lavato la faccia. Con quella lingua grande che ha me. Gesù, così per lui. Ah, tu ti ho visto arrivare, tu ho lasciato lo sportello aperto, non piace mai te. La gente conosce che fa così, è molto, è bravo. Ha sentito dalla voce, ha detto che c'è, Antonio c'è, Antonio, più, è partito, ha mollato il guinzaglio, è entrato dentro la macchina, c'è tutto l'inghito, la beffa l'ha fatto, e povera come mi hai fatto, meglio mai te, va a Carranci. Eia, sì, guarda, si può andare in qualsiasi giorno, che non sia venerdì o sabato, perché è troppo brutto, la verità è venerdì o sabato. Non sono tanto abituato, basta andare qualsiasi giorno, mercoledì, anche più tranquillo mi. La roba da mangiare è buona, niente da dire, niente da dire. Poi quel dolce mi, lo stavo dicendo a Natalino, quel dolce, che io ero già pieno della pizza, ma come ho visto quel tiramisù, ho detto me ne usciranno gli occhi, non me lo devo mangiare tutto. A me piace un bella pizza. Braccio, me ne scendo. Che pedi Natali? Sì, ne ho una di faccia però, l'ultima che gli ho fatto, aspetta. Poi Gianni dove è andato a portare il cane? Eia, e lui si fa un bel giretto anche, Claudio. Lui fa un bel giro largo, quando uscivo con lui a portare il cane a quell'ora si fa un bel giro, una bella camminata, aspetta. E ti dirò che Gianni con il piede offeso a piedi truba ben più di me, fa un bel più veloce, io vado piano, sono sempre dietro, quando lui portava il cane. Vabbè. Ci vuole anche. Allora. Aspetta, Natalino. E cerca la foto, dai, cerca la foto. Per Natalino. Oh Natalino, ma tu all'anagrafe sei Natale come nome o Natalino? Oh Natalino. Non ti spaventare. Poi ti fai mandare la foto di quello di Gianni, guarda la testa di Filippo, la struttura che c'ha, guarda il petto già si vede, poi guarda quello suo. Allora, tenendo conto che senza peccare presunzione, il mio è un bulldog inglese gigante, non è un bulldog inglese nano, di chi si vuole anche il gol, è un bulldog inglese gigante, capito? Quindi c'è una struttura pazzesca, ci sono pochissimi esemplari in Sardegna, a Sassari non ce n'è neanche uno, manco uno, ok? guarda questa foto, poi mi dici tu che cosa devo fare io con un cane che pesa 45 kg. Quindi ti è arrivata la pappa, stai per pappare? Cornelia. Dai, ci sentiamo domani. Solo chiedere una cosa, ma non mi ricordo. Vabbè, tu hai fatto il militare, ovviamente. Tu li hai mai conosciuti? Quei fornelletti pieghevoli che diventano piatti per scaldare il rancio, che funzionano con tavolette combustibili? No, io credo a Dio, quella roba l'ho conosciuto perché ho fatto la Maddalena, praticamente tutto il militare. Io ho fatto un giramento alla Spezia e il giorno dopo mi hanno trasferito alla Maddalena e ne ho fatto 20 mesi. Ed era la scuola allievi sottufficiali, quindi queste cose non c'erano. C'era un bel palco mensa, tutto quello che serviva, poi io facevo un servizio particolare e quindi io uscivo la notte a controllare gli allievi, capite? Facevo le guardie con l'ufficiale ispezione, tutti due assieme. Ero già graduato, quando sono arrivato lì e controllavo gli allievi che lì praticamente avevano 17 anni, tutti gli allievi che poi andavano all'accademia. Non avevo un ciclo di cardoggia io, e ti dico che mangiavo benissimo, bene, ti parlo del 1979, facevo fettina, insalata, avevo le patate arrosto, avevo il purè sempre, avevo di tutto, la carne era buonissima, i primi erano sempre due o tre, stava bene, dove io stavo bene, avevi l'acqua, il brick del vino, quello piccolino, bianco o rosso, avevo tutto e poi dormivo praticamente in due, noi avevamo una stanza per due, non ero in camerata come gli altri, capito? Ah, non so perché te l'ho chiesto.